le scarpe allineate, le esche per i topi, su assi impolverate, tra pareti e dirupi, guarda tra le cose da fare se trovi uno spazio per la pioggia e smettila di vedere per ciò che senti e smettila di cercare per ciò che senti. Ci vuole un ordine, anche sparso, religioso, alfabetico, professionale, un ordine del giorno, cronologico, di partenza, numerico, logico, di pagamento, un ordine naturale, costituito di idee. Guarda tra le cose da fare se c'è una coordinata che si è persa. Guarda se trovi un vecchio asse di simmetria. Guarda tra le cose da fare se c'è un asse magnetico o il suo spettro. Guarda se avverti una rotazione in corso intorno a un asse a generare il solido, nulla, terrestre. Quando avrai trovato, sarà interessante sentire la vibrazione che dalle fondamenta scorre al timone e dal legno alle mani. Tieni fermo il timone, tienilo fermo, fermo. Viviamo in un'epoca dalle venature così imprecise e io sono cresciuta così infelice che pensavo fosse normale. Sono cresciuta dentro i muri della casa. È stato un esercizio per l'ingenuità, un equivoco fatale. Dentro, come negli occhi ferrigni della Troia di Campana, disamata leonessa da Zerbino. A pertimone l'aria notturna degli anfratti, scolpito nei sogni primordiali. I miei passi sono un lavoro di agemina, intarsio di vibrazioni. E mi chiedo tra voi, chi ha tra voi gli stessi miei gesti da una stanza all'altra a cercare nuovi nomi per i morti o quella bolletta che era poco fa proprio qui. Mi consolo nel disordine. Smarrirsi componendo un mosaico è un attimo, a meno di non essere insetti diurni e percepire nitido il reale per opposizione, insistendo sulla legittimità dello spazio di ognuno. Spazi non sovrapponibili, per viversi accanto e mai dentro. Scomposto. Intervallo. Ritrovarsi componendo un mosaico è un attimo, a meno di non essere insetti notturni e percepire l'obliquo del reale per sovrapposizione, insistendo sull'illegittimità dello spazio di ognuno. Ricomposto. Intervallo. Lo spioncino spalancato strizza l'occhio all'infinito. Che illusione. Con le palpebre sollevo le fondamenta e ogni cosa è una misera traccia di desiderio. Confino i pensieri alle immagini, alle pareti di una casa invisibile. Un viaggio tutto interno, la luce spettatrice, i conti con se stessi, un viaggio fermo, il resto è superficie. Con il mitra puntato, la distanza si traduce nel suo contrario e allo scadere del turno di guardia, il lontano torna finalmente lontano e la vicinanza è concorde. Esplodono allora le divinità infuriate, le microcariche nei rami dell'albero della vita, le finestre dello stare a guardare, gli abbinamenti, i riferimenti culturali dei paraggi e i rifugi della lingua e dei linguaggi. Esplode l'immagine, l'idea, il sogno, il silenzio sospeso. Intercetto le schegge scaraventate dallo spostamento d'aria con la danza macabra che imparo dalla mia progenie. E poi pulisco io. Solo così riesco a vedere la luce per quello che è. È il pensiero del quanto, quanto da amare, quanto da leggere, da prendere, quanto tempo, quanto male, quanto mi piace, quanto da pagare, quanto lavoro, quanto. Provoca un senso di nausea all'equilibrio dell'immobilità e spesso segue il conato del senso di misura e nonostante tutto, nessuno fa la polvere. I particolari, gli scarti, gli avanzi, i bordi sono l'unico cuore. Gracias.